Sura del Sole, capitolo 91 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 15 ayat ed è scesa dopo la Sura 97, Al-Qadr. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, io, Allah, lo giuro sul sole e la sua luce mattutina, sulla luna quando lo segue, sul giorno in cui si manifesta il suo splendore, sulla notte quando il suo splendore è nascosto, sul cielo e come è stato costruito, sulla terra e come la spianò, su un'anima e come la proporzionò, dando a essa la coscienza del male e del bene. Chi si eleva spiritualmente avrà successo, mentre invece fallirà chi la sua anima l'avrà sotterrata. Rifiutò di credere Thamud nel suo orgoglio prevaricatore, quando il più disgraziato di loro si levò, benché l'apostolo di Allah avesse detto «Rispettate la cammella di Allah e la sua abbeverata». Essi, dopo averlo accusato di menzogna, la sgarrettarono. E il loro Signore li punì per il loro peccato, annientandoli, senza temere conseguenze.